Radio 24 Reportage. La mappa del virus. Prove di test a Milano. Di Rosanna Magnano. Penso che sia una cosa che qualsiasi persona dovrebbe fare, perché è una cosa che non ha senso per paura. Mi sembra anche una questione di rispetto in confronto alle altre persone che ci stanno vicine. Perché penso che sia importante per capire quella che è la diffusione del virus in generale e per fornire elementi alla ricerca, penso anche. E poi magari tranquillizza anche me per capire se ho avuto questa infezione o meno e le persone che mi stanno accanto. Ecco. Beh, prima per curiosità personale, perché mi piacerebbe essere, diciamo, avrei risolto, insomma, senza essere stato colpito da effetti visibili di tutto il virus, per mio figlio, mia moglie, insomma, per poi continuare la vita più tranquilla, ecco. Adesso non so quanto sia definitivo il verdetto, ma è comunque un'iniziativa che tranquillizza me, ma soprattutto tutti i miei colleghi che sono sul campo tutto il giorno. No, assolutamente, per motivi anche di sicurezza per i dipendenti dell'ateneo, e anche come curiosità personale per capire se sono, ho gli anticorpi oppure non ho gli anticorpi, se ho già contratto la malattia oppure no. È una cosa che secondo me è molto utile a questo punto per una sicurezza proprio di tutti, anche perché è una cosa preventiva, e comunque sia, se avessi gli anticorpi e risultassi poi eventualmente positivo, è meglio saperlo prima, poter riuscire a fare una cosa precoce a livello di cura, piuttosto che magari non saperlo e arrivarci poi con una situazione ben diversa. Sono le voci di alcuni dipendenti dell'Università Bicocca di Milano. Stefano, addetto alla logistica, Christian, autista, Giovanni, amministrativo, Stefano, responsabile dei servizi informatici, mentre lo scorso 6 maggio, all'alba della fase 2, si trovavano in fila per sottoporsi volontariamente a un test sierologico. Un'iniziativa avviata dall'università in collaborazione con il gruppo ospedaliero Multimedica per valutare la prevalenza degli anticorpi contro il SARS-CoV-2 tra i dipendenti delle due realtà. Un filone di una ricerca più estesa che ha portato a individuare una positività tra il 5,6% in Bicocca e il 10% nei centri ospedalieri Multimedica, tra individui asintomatici e apparentemente in buona salute ma diversamente esposti. Alta l'adesione al test volontario anche tra i docenti. Lucia Visconti Parisi, professore di Scienza delle Finanze. Rileva lo stato della propria salute, ma soprattutto lo stato di contagiosità verso gli altri, e quindi è un'attenzione verso se stessi, ma anche verso gli altri. Poi, diciamo, in queste azioni di controllo c'è quella che noi economisti chiamiamo un'esternalità positiva, cioè io controllandomi evito che altri si ammalino, e quindi questo, diciamo, è fondamentale per la vita sociale. Campus apripista sul Covid-19 con circa 2.000 dipendenti sotto la lente e dove in piena pandemia si sono laureati circa 1.900 studenti. Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano Bicocca. Tutti i dipendenti del personale amministrativo, i tecnici, tutti i docenti, i ricercatori che vogliono possono sottoporsi, io sono stata la prima stamattina, possono sottoporsi appunto ad un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi al Covid. Ovviamente se la presenza di anticorpi al Covid fosse trovata si proseguirà con ovviamente il tampone e poi tutto quello che ne deriva e ne consegue. La ragione per cui ho deciso di fare questa cosa, e sono molto contenta di essere il primo ateneo a farlo, e mi auguro che poi tutti seguiranno, ma anche gli enti pubblici, secondo me questa indagine ha senso se fatta veramente a tappeto, perché ripeto ancora una volta, all'inizio della fase 2 noi dobbiamo sapere il numero, chi sono i cosiddetti asintomatici positivi, proprio per evitare che possano essere un veicolo di contagio del virus, soprattutto pensando ai più fragili, ai più deboli, perché in questo momento io mi sento proprio come rettrice la responsabilità sia di tutelare la salute della mia comunità, ma anche mi sento che dobbiamo evitare di essere un veicolo di contagio verso i più deboli, che sappiamo reagiscono, come dire, male ovviamente al virus. No one on earth could feel like this. I'm monitoraggio in vista dell'atteso ritorno degli studenti a settembre, ma anche una ricerca epidemiologica per attrezzare la medicina del lavoro di nuovi dati utili alla prevenzione all'interno delle aziende. Daniele Schwarz, amministratore delegato di Multimedica, struttura sanitaria che ha testato anche i propri 2.400 dipendenti. Noi siamo intorno al 9% di soggetti del tutto asintomatici che hanno anticorpi, che all'interno di Multimedica, nell'ambito dei nostri 2.400 dipendenti che sono stati testati. Quindi abbiamo pensato che era opportuno, di fronte a una fase 2 che doveva ripartire, che doveva quindi garantire una difesa contro questa emergenza economica che succede ad un'emergenza sanitaria, dovevamo garantire un ambiente il più possibile sicuro e sano alle varie aziende, e quindi abbiamo pensato di offrire questo studio nel quale vengono testati tutti i soggetti che non hanno avuto una malattia, per permettere alle aziende che devono riprendere di riprendere con sicurezza, riprendere senza aver problemi di salute e poter quindi aiutare l'Italia a ripartire, che ha grossi problemi e li vediamo tutti i giorni. Questo è uno studio epidemiologico che dà valutazioni che hanno un grande valore sanitario, ma oltre a ciò dà delle informazioni che a disposizione del medico del lavoro dell'azienda potranno essere molto utili per organizzare con serenità e tranquillità la ripresa lavorativa. Noi abbiamo avuto un numero di morti ben superiore a quello che è ufficialmente registrato, un numero di malati ben superiore. Dobbiamo sapere quindi qual è il rischio delle persone che rientrano al lavoro, qual è quindi il rischio di una ulteriore interruzione dell'attività che sarebbe fatale per il sistema paese. A partire dai dipendenti ospedalieri e dell'Ateneo, lo studio si è poi ampliato alla popolazione che volontariamente si sottopone al test. Dai primi risultati emergono percentuali di positività e quindi di potenziale contagiosità tra cittadini asintomatici, comprese tra il 6 e il 13%. La mappatura dei casi resta dunque un fattore cruciale per sconfiggere l'epidemia nella regione più colpita e ancora alle prese con numerosi interrogativi sulle difficoltà di effettuare i test, tracciare i contagi e isolare i casi. Roberto Mattioli, responsabile del servizio di follow-up pazienti Covid dell'IRCS Multimedica. L'allarme deve essere comunque mantenuto, cioè nel senso, noi non abbiamo un campione così ampio per poter dire è una significatività importante, però il trend è quello della presenza di una positività in termini di tampone, quindi di infettività, su pazienti che sono asintomatici. E quindi questa è l'attenzione che dobbiamo porre, quindi la capacità di incrementare il numero di osservazioni sierologiche e tampone conseguenti ci deve portare a dare una tracciabilità del movimento e della presenza del virus. Dobbiamo lavorarci di più, aumentare il numero e quindi capire quant'è nella popolazione che stiamo analizzando. Questo ci porta assolutamente ad essere molto ferrei nei consigli del distanziamento, della mascherina, degli sistemi, diciamo, di igienizzazione. Che scenario si presenta nel futuro della Lombardia? Bisogna vedere quanto siamo capaci di essere attenti. Personalmente, come medico e come cittadino, è logico che abbiamo necessità di ripartire. Non possiamo farlo con una superficialità come a volte si osserva nella popolazione. È chiaro che mentre prima avevamo la potenza della malattia e quindi dell'espressione della gravità della malattia, adesso siamo in una fase più subdola nella quale la malattia come manifestazione clinica può essere meno o non presente, ma esiste l'infettività. E allora noi dobbiamo tracciare il percorso di questa infettività, isolarla, bloccarla e portarla nei controlli con i tamponi e con i sierologici a seguire alla sua negativizzazione. Fare il tampone in Lombardia è difficile ancora? Da quello che so io delle varie decisioni regionali risulta abbastanza difficile per quanto riguarda il sistema sanitario, meno per quanto riguarda le delibere verso le strutture private che si sono messe a disposizione per questa tipologia di indagine. Va un po' migliorata la situazione. Le forniture di reagenti, kit ci sono? Iniziano a presentare delle criticità, perché ovviamente è una macchina che è partita tardi, diciamo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.